fossi come la mia batteria. Potrei picchiarti quanto voglio e non andresti via. Ti suonerei fino a sera, poi ti lascerei riposare. Con un colpo di gran cassa ti verrei a svegliare. Se tu fossi come il mio nuovo basso, anche se sei troppo alta, va bene lo stesso. Ti slepperei, ti strapperei. Passerei dal funky all'issio, con un passaggio in controtempo, ti direi quanto ti voglio, quanto ti voglio, quanto ti voglio. Ma tutto questo non sei. Ma tutto questo non sei. Ma quanti tasti neri e bianchi, quanti posti da toccarti, e con un semplice fa sol suonare canzoni dolci, non ti farei stonare, più ti suono, più ti voglio. Di giorno.